Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, è proprio vero che la penna di un grande scrittore può rendere palpitante e attuale qualunque vicenda e qualunque tema, per esempio il tema della giustizia, un tema apparentemente così importante ma anche un po' distanziante, ma che nella penna di un grande scrittore francese, cioè Anatole France, diventa un racconto che ci parla veramente, ci porta all'attualità di oggi. E il titolo del libro di questo grande scrittore, Anatole France, che visse tra il 1844 e il 1924 e vinse il premio Nobel per la letteratura nel 21, è Crankbill ed è pubblicato da Liberi Libri, 90 pagine, 14 euro, è curato e tradotto da Carlo Nordio, che come ricorderete è uno dei più noti e stimati magistrati italiani, attualmente procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia. Il protagonista del libro è un povero ambulante che è sempre riuscito, nonostante tutto, a cavarsela nella vita e a esserne soddisfatto, mantenendosi nei binari di una vita retta, nonostante le modeste condizioni. Un giorno però la catastrofe, per una stupidaggine, ingiustamente, Crankbill viene arrestato, processato e condannato. E nonostante la sostanziale serenità con cui affronta il proprio destino, la sua vita ne sarà irreparabilmente segnata. La trama, come sentite, è molto semplice, lineare, ma in poche pagine, in fondo la novella vera e propria occupa non più di una trentina di pagine, descrive un dramma che suscita appunto le riflessioni del magistrato, che attualizza molto questa vicenda, e proprio di questi aspetti ne parliamo con lui. Buonasera a Carlo Nordio. Buonasera a voi e grazie. Carlo Nordio, lei coglie due spunti nelle pagine che dedica a questa novella di Anatole France, cioè la strumentalizzazione della legge e l'ipocrisia. Due spunti che fanno di questa novella un caso esemplare su come la giustizia viene gestita. Anzi, lei dice che il destino del protagonista di questo racconto dimostra come una realtà universale, cioè quanto sia scarsa l'attenzione alla ricerca della verità. Ecco, come può commentare queste sue parole? Ma nella novella di Anatole France, che è stata scritta 100 anni fa, emerge la figura di questo povero uomo che viene stritolato dalla macchina giudiziaria, nel cui ambito ognuno agisce secondo il proprio interesse, l'avvocato difensore secondo il suo, il giudice secondo il proprio e via dicendo. Il parallelo con la situazione attuale ovviamente è un'analogia, diciamo, aggiornata, ed è quella che durante le indagini giudiziarie che coinvolgono persone di caratura politica si cerca di strumentalizzare l'indagine medesima per eliminare la concorrenza, cioè per eliminare gli altri personaggi politici che magari vengano raggiunti da un'informazione di garanzia, senza tener conto che un sistema diciamo appunto garantista come il nostro, come dovrebbe essere il nostro, dovrebbe prescindere da questa sorta di presunzione di colpevolezza politica, perché sino a prova contraria, cioè sino a quando la sentenza non passa in giudicato, una persona dovrebbe essere libera di esercitare pienamente i suoi diritti e i suoi doveri politici. Purtroppo da noi siamo arrivati al paradosso, e questa è la strumentalizzazione che più mi ferisce come uomo e come magistrato, che è sufficiente l'iscrizione nel registro degli indagati per sollevare tutta una serie di problematiche che poi alla fine si vuole concludere con l'abbandono o con l'allontanamento magari provvisorio, finché la situazione non viene chiarita, del cosiddetto indagato. E questa è una strumentalizzazione politica che io trovo intollerabile. Lei stesso è stato protagonista di indagini di caratura politica, come l'ha definita appena adesso, eppure ci sono state meno polemiche, non vorrei metterle in imbarazzo, però... No, assolutamente. Allora, io sono ancora protagonista come coordinatore delle indagini del MOSE, provvedimenti giudiziari molto cruenti, come possono essere le richieste di custodia cautelare, che una volta accolte dal GIP comportano la limitazione di fatto dell'attività di una persona se viene arrestata o se viene posta agli arresti domiciliari. Ma è evidente che più si va avanti nella dinamica dell'indagine, e più diciamo le limitazioni all'attività politica dell'indagato emergono dalla stessa realtà delle cose, cioè una persona che venga arrestata chiaramente non può più esercitare la propria attività politica, ma altro caso è quello invece del, a parte il fatto che una persona arrestata ha già acquisito la qualifica di imputato e quindi la sua presunzione di innocenza viene in un certo senso un po' affievolita, ma altro caso invece, ed è questo quello che più mi irrita, la semplice iscrizione nel registro degli indagati e l'informazione di garanzia, che essendo un atto dovuto proprio a garanzia di chi lo riceve non dovrebbe mai comportare nessuna conseguenza negativa. Ecco, Anatole France a un certo punto fa un'osservazione molto drammatica, cioè dice, quando il caso ormai è chiaro, il povero uomo è stato rovinato, e scrive l'autore, la disgrazia lo rendeva ingiusto. Ecco, c'è questo aspetto che l'ingiustizia produce sempre nuova ingiustizia. Certo, questo è uno dei drammi, diciamo, che si studiano anche nell'ambito della filosofia del diritto. Lo insegnava a suo tempo Socrate, che non si può rispondere a una ingiustizia con un'altra ingiustizia, perché poi questo fenomeno pernicioso tende a clonarsi. Io andrei anche oltre, direi che anche le pene eccessivamente severe sono, e quindi sostanzialmente ingiuste, producono ingiustizia. La moda che abbiamo adesso, che hanno molti governi anche di recente, di ritenere che l'aumento delle pene e della carcerazione preventiva sia un mezzo per aumentare la sicurezza e anche per aumentare la sete di giustizia che hanno gli italiani, è un metodo completamente sbagliato. La pena deve essere prima di tutto equilibrata, deve essere seria, deve essere proporzionata, perché il primo giudice sulla equità della pena è proprio chi la subisce. Anche il delinquente più incallito sa che quando ha commesso un certo tipo di reato deve essere punito se viene preso, però lui è la prima persona a comprendere se quella punizione è esagerata oppure è proporzionata, e se la punizione è esagerata o addirittura inumana si può star certi che invece di avere un'efficacia rieducativa avrà l'efficacia di potenziare i suoi istinti criminosi. Mi pare che un'altra tendenza perniciosa sia quella della penalizzazione di molti eventi, di molti fatti. Questo è sacrosanto, noi abbiamo purtroppo anche questo pregiudizio funesto di pensare che ogni illecito debba essere sanzionato con l'arma penale, che peraltro in un sistema sfasciato come il nostro è un'arma completamente spuntata. Mi permetto di aggiungere che nella postfazione nuova che ho scritto di questo libro, di questa novella, cerco anche di far capire perché il sistema è sfasciato, cioè c'è una tale criminalizzazione, come ha detto lei, di comportamenti bagatellari e una tale lungaggine procedurale bizantina nei processi, per cui alla fine, volendo fare tutto, non si riesce a fare più niente. E infatti lei cita il caso esemplare di questo povero giapponese che ha perso il cellulare a Venezia, signor Kobayashi. Signor Kobayashi, in effetti è un modo anche per alleggerire quella che è la drammaticità del racconto, che pur essendo scritto con la classica lievità elegantissima di Anatole France, è un racconto che veramente ti prende per la gola. Questa postfazione narra appunto, è un caso realmente accaduto, ma ne accadono a migliaia ogni giorno, di un turista che perde un telefonino e torna in Giappone, e però in Italia si instaura un processo che dura mesi, è estremamente costoso e naturalmente che non conduce a nulla se non a rallentare il corso della giustizia, che invece dovrebbe occuparsi di cose più importanti. Lei ha fiducia nei tentativi che si stanno facendo in questi anni, in questi mesi, di riformare la giustizia con l'obiettivo di accelerare i tempi della giustizia? Ma diciamo l'ottimismo della volontà sul pessimismo della ragione, come si dice. Ci sono molte cose interessanti che stanno, almeno che vengono dette da questo nuovo governo, e che se fossero attuate effettivamente razionalizzerebbero la giustizia. Però posso dirlo, l'ho detto tante volte, ha cominciato male. Rottamare nell'arco di un anno 500 magistrati, io non sono tra questi, quindi non parlo pro domo mea, che se ne andranno in pensione quest'anno dai 70 ai 75 anni, decapitando tutti gli uffici giudiziari più importanti e tra l'altro affollando il Consiglio Superiore della Magistratura di nuove domande, di nuovi pretendenti a posti che resteranno scoperti, questo costituirà sicuramente una paralisi per i prossimi 2 o 3 anni della giustizia. Non continuo a non capire la razionalità di questo provvedimento, perché nonostante sia giusto il principio che insomma a una certa età, anche a 70 anni, uno se ne deve andare, non puoi farlo così, entrando come un elefante nella cristalleria ed eliminando nell'arco di 12 mesi tutti i vertici giudiziari di tutti gli uffici italiani. E quindi diciamo che a fronte di tante belle proposte che io condivido e spero vengano attuate, però diciamo il primo intervento concreto secondo me è stato devastante. E tornando all'uso politico della giustizia, lei usa a un certo punto una suggestiva immagine, cioè parla del coccodrillo. Molti si comportano come il coccodrillo che mangi il vicino e in realtà, scrive, ne hanno scatenato l'appetito e alla fine ne sono stati divorati e rischiano continuamente di esserlo. Questo sta succedendo, mi pare, molto anche alla politica, è già successo. Certo, premesso che l'immagine è molto bella, non è mia, ma di Winston Churchill, usata all'inizio della Seconda Guerra Mondiale sull'appetito di Hitler, è un'analogia estremamente evidente, risale ai tempi di Tangentopoli, prima quella del 92 che pure io ho trattato qui a Venezia proprio in prima persona. Si vedeva, si percepiva, si capiva che ogni qualvolta veniva indagato un uomo politico, classico l'esempio è stato quello dell'onorevole Craxi e dell'onorevole Martelli, in base a questa, diciamo così, a questo pregiudizio per cui chi è raggiunto da un avviso di garanzia si deve comunque far da parte, venivano invitati questi vecchi mostri sacri appunto ad allontanarsi per lasciare posto ai più giovani, salvo poi venivano raggiunti anche loro da altri avvisi di garanzia e così via finché si sono dissolti interi partiti. Questa è una storia che ancora oggi si sta ripetendo, sia pure in termini, vorrei dire, più ridotti e anche più prudenti, però di tanto in tanto quando si sente dire che tale onorevole, tale ministro, proprio perché è iscritto nel registro degli indagati, deve fare un passo indietro o addirittura non dovrebbe presentarsi alle elezioni, questo significa tra l'altro attribuire alla magistratura di fatto dei compiti onerosi che noi non abbiamo, perché nel momento in cui io iscrivo per atto dovuto, perché è mio dovere farlo, una persona nel registro degli indagati e magari gli spedisco l'informazione di garanzia a sua garanzia, gli ipoteco negativamente una competizione politica alla quale ha pieno diritto e quindi di fatto la selezione politica viene attribuita al pubblico ministero con una perversione politica, perversione intesa in senso di deviazione, in senso latino, che è assolutamente inaccettabile. Tutte queste vicende non hanno trovato ancora la penna di Anatole France. Beh, Anatole France è uno scrittore impagabile ed è uno scrittore come Voltaire, una lievità e un'eleganza del francese. Io ho cercato di tradurlo in italiano il più possibile accessibile, ma sì, non ci sarà un nuovo Anatole France. Grazie a Carlo Nordio, curatore di Crank Bill di Anatole grazie France. A voi, buona grazie serata. Per l'ospitalità. Anche buona serata. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo cominciato parlando di una novella e continuiamo con 3 raccolte di novelle. La prima è di un grande, grandissimo scrittore del Novecento, Rainer Maria Rilke, di cui vengono pubblicati 7 racconti e di questi il primo dà il titolo al libro, Figlio unico, sono proposti da Ibis, 76 pagine, 7 euro. E il libro è curato da Anna Ruschat. Rilke è vissuto tra il 1875 e il 1926, è più noto come poeta e invece quasi sconosciuti sono i suoi racconti. In quello che apre la raccolta, Rilke scava a fondo nel rapporto quasi morboso tra una madre religiosissima e un figlio malato, un rapporto che diventa quasi uno scontro. La donna ha un rapporto particolare con Dio e ha quasi uno scontro con Dio, che ella vede come minuscolo e timido. Il figlio a sua volta giudica Dio come colui che assorbe completamente l'attenzione della madre, quindi un rapporto difficile. difficile, che però non impedirà che alla fine i due si ritrovino nelle ultime righe in un estremo atto di pietà. L'altra raccolta è quella di una scrittrice di origine svizzera, Fleur Jaeggi, che ci propone un libro di racconti intitolato Sono il fratello di XX Adelphi, 130 pagine, 15 euro. Questi sono 20 racconti, alcuni brevissimi, apparentemente dimessi nello svolgimento, ma capaci di un sorprendente scarto finale che sorprende sempre il lettore, come la rivelazione, per esempio, del grande scrittore Joseph Brodsky, che illumina una di queste novelle. Questo scarto è molto simile al movimento felino, la scrittrice lo definisce Übersprung e così lo descrive applicandolo agli umani. Übersprung, parola che riguarda anche noi. È il volgersi altrove, passare ad altro, manifestare il gesto del distacco, come un addio. La divagazione dal tema, l'evasione da una parola e insieme la caccia alle parole. Il disfarsene. Sono altrettanti modi mentali dello scrivere. Infine la raccolta di un'altra scrittrice, Puntini nell'universo, di Elena Salem, giornalista, poi editrice, comunicatrice, ora scrittrice. Lo pubblica Finis Terre, 274 pagine, 14,50 euro. Questi sono 10 racconti dal tema complesso ma affascinante, cioè quello del rapporto tra la vita e la morte. Il racconto al quale si ispira il titolo, Puntini, per esempio, ci fa incontrare un signore dalla vita banale, forse grigia, che minaccia il suicidio e apre un dialogo con il vigile del fuoco che è accorso a distoglierlo dal suo gesto. Puntini sembrano dall'alto del grattacielo da dove vorrebbe buttarsi l'uomo le persone, non consapevoli di esserlo, aggiunge l'aspirante suicida. Una vicenda che non mancherà poi di avere conseguenze decisive sulla famiglia del vigile del fuoco Salvatore. Insomma, come scrive Umberto Veronesi nella prefazione, il lettore di questo libro non troverà risposte ai dilemmi posti dalla fine dell'esistenza, ma sarà condotto con grazia a riflettere, a pensare a come vita e morte siano naturalmente intrecciate l'una all'altra. Una biografia, anzi una doppia biografia che si legge come un romanzo, è quella dei protagonisti di una delle passioni più celebri e tragiche di tutti i tempi, quella tra Eloisa e Abelardo, che danno il titolo al libro di Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, pubblicato dalla Terza, 208 pagine, 13 euro. Siamo intorno al 1100, quando esplode appunto l'amore tra uno dei grandi filosofi dell'epoca, Abelardo, e una sua allieva, la giovane, brillantissima ed erudita Eloisa, che era stata mandata da Abelardo proprio per rafforzare la propria formazione. Qui troviamo la storia di questa passione diventata leggendaria, che presto esploderà tra il maestro e l'allievo. Attenzione, questo non è un romanzo e tantomeno un romanzo rosa, ma un saggio storico appassionante su una delle vicende che sono entrate nell'immaginario collettivo e naturalmente sul clima culturale del Medioevo. È un saggio condotto soprattutto sul famoso epistolario tra Abelardo ed Eloisa, il cui rapporto al contempo intellettuale, amoroso ed erotico assunse un significato quasi mistico. Scrive infatti l'autrice che con una trasposizione intellettuale immaginativa tipica della cultura medievale, il singolare diventa universale, il fatto individuale simbolico. In poche parole, la situazione è vissuta come significativa. L'allieva amante, aggiunge, rappresenta l'anima che inizia a percorrere le vie della sapienza, aiutata dallo stesso amore per la sapienza, filosofia, che l'accompagna come una passione, ma una passione razionale, il giusto riconoscimento del valore dell'oggetto a cui si aspira. È fatale il parallelo con un altro rapporto leggendario nato anch'esso sui libri, quello di Paola e Francesco, e anche qui la componente erotica non è certo secondaria. Scrive infatti l'autrice che Eloisa, con un improvviso lancinante ricordo, rivela che anche il suo amore per Abelardo non è mai stato così puro e disinteressato come voleva l'insegnamento di Cicerone e lei pretendeva. Nell'epistolario i due passano attraverso tutta la gamma delle valutazioni del piacere e dell'amore. Il rapporto tra Abelardo ed Eloisa avrà un esito drammatico, ma resterà simbolico ed esemplare, come ci spiega l'autrice in queste righe. Perché riteniamo bella questa vicenda? L'idea così antica che i fatti umani e le storie abbiano un significato che va al di là dell'esaurirsi dell'esistenza ha ancora su di noi molto potere. Anche se nei fatti singoli della vita di Eloisa e Abelardo prevale la disperazione, il distacco, l'incompiuto, la persecuzione, la lontananza, ossia tutte le categorie negative e dolorose, nella totalità della vicenda dominano le altre categorie, quelle gaudiose, dell'amore, del dialogo, del fare insieme, della speranza e della persistenza. Un'altra biografia che si legge come un romanzo, questa di un animale leggendario, ed è un cavallo, che è un campione eccezionale di trotto, Vandalo. L'ha scritto Mario Natucci, un giornalista, si intitola Veloce come Vandalo, il romanzo del leggendario trottatore nato per vincere, pubblicato da Nomos Edizioni, 216 pagine, 14,90 €. Vandalo fu intorno al 1870 uno dei primissimi miti sportivi degli italiani. Addirittura in un paese che era stato da poco unificato fu considerato uno dei primi simboli capaci di appassionare tutti gli italiani per la sua sfolgorante carriera. Aveva vinto, pare, 300 corse, ufficialmente sicuramente 200. Natucci ha trovato le carte su questo cavallo che erano state raccolte da un irlandese, Fred O'Donoghue, appassionato dell'Italia e dei cavalli, delle carte appunto su questo campione, e da queste carte Natucci ha ricavato un libro godibilissimo che appassionerà gli sportivi e incuriosirà chi voglia conoscere meglio l'Italia a cavallo tra il 1870 e gli anni 20 del Novecento. Ricordo qui le parole dell'irlandese sul significato che Vandalo assunse per l'Italia. Vandalo, scrive, rappresentò nella fantasia popolare degli italiani un loro campione vincente, uno che sconfiggeva i rivali stranieri, una specie di eroe che si faceva rispettare all'estero. Quel cavallo dava loro ciò che gli uomini non riuscivano a dare, un motivo di orgoglio in un periodo in cui l'Italia, unita solo sulla carta, era un paese povero e arretrato e sfigurava nel confronto con gli altri paesi europei. Insomma, una specie di Maradona, come scrive nella prefazione un altro giornalista appassionato di cavalli, e cioè Vittorio Feltri. E a questo punto il confettino. Vi propongo un'altra biografia che dedichiamo a una persona la cui vita ha commosso tutti, Nelson Mandela, e si intitola il libro Il bambino Nelson Mandela, così è iniziato il cammino verso la libertà. Ne è autrice Viviana Mazza, è pubblicato da Mondadori, 190 pagine, 14,90 €, ed è illustrato da Paolo Daltan. Questa è la storia di Roy Lee Hala, il piccolo Mandela che diventerà il liberatore, il pacificatore del suo popolo. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Peter Bescapè, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.